10. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno in frequenza in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno? Chi è che fruscia? Avanti, Colò, buonasera. Oh, sì, ancora in giro, sì, eh? Ciao, Claro, no, sto uscendo di casa adesso, mi. Adesso. Io. Ma cos'è quel fumonello che si vede da Porto Antologe? Ma sono passato lì perché ho accompagnato Gabriele a Ottava, lì da quelle parti lì, dove c'è la Mondetta. Ah, appunto, Giuseppe. Speriamo non arrivi a Sassari, che quello è il carcerogeno. Lo so, il carcerogeno, infatti Gabriele deve fare una nottata lì con gli amici. Pure in tenda, gli ho detto, ma se sentite odore dentro casa, mi raccomando, perché è tossico. Se lì dovrebbe essere quello della pratica. Sì, è quello della pratica, infatti c'è anche, se guardi c'è anche su Facebook, dai, l'hanno postato, ma l'ho visto in persona, dai. Col caldo che sta facendo, ora sì che sia partito qualcosa. Un attimo, Cla, sì, le riprendo subito. Vai, vai, già sono qua. Bene, guarda un attimino, Cla, e segnale, qua sono la zona più alta di casa, diciamo, dai, prima di prendere la discesa, qua sono nel punto più alto, vedi un po'. Ah, i picchi tra 9.10 e 9.20 con questi B, dai, 9.10 e 9.20, sì, ma col camper, sì. E allora, stavo uscendo. Quindi hai scaricato a Gabriele e te ne siamo andati, eh? Sì, adesso me ne vado a Sabadurche. Sempre lì stai andando, è un bel posto quello, si sta bene. E adesso sono nelle rocce, sì, tra. Si sta bene, ho contattato, poi diciamo che c'è un po' di maestralino e mi voglio fare una giornata di pesca, dai. Gappa, già va bene. Niente, io mi accompagnato di là di lavoro perché mi servivo la macchina. Adesso all'una e mezza, 2:15 devo andare a ritirarla, quindi a uscire si esce domani, oggi a casa. Andare, grazie, devo volare un attimino, sono in curva qua, in zona pericolosa, dai. Fai, guida, stai attento alla guida. E non è qua a Sant'Orsola. Cosa? Ti? Ho detto qua a Sant'Orsola, zona COP, diciamo, dai. No, già ti sento sempre, non ci sono problemi, già va bene. Con la speranza che tu mi ascolti, 20 watt. Ma io voglio provare se arrivi lì, dai. Zona Bosa. Non so. Sicuramente da dove ero prima, sì, qua non lo so perché le antenne, cioè l'antenna è molto bassa, sempre nel giardino. E vabbè, magari è aperta quella zona per te. Alghero mi arriva, Bosa non lo so, Alghero mi arriva a 9, Bosa non lo so, 9. Se arrivo, se non arrivo, pazienza. Altrettanto, posso dire io, ma lei non ci arrivo io, tu sì, e non ti posso dare conferma. Non lo so, ti. Non lo giaccio, non ho mai provato da qua, perlomeno non c'è mai stata l'occasione, da dove ero prima da Carbonati, Bosa arrivava come Alghero, non c'è problema, però da qua non lo so, non ho mai provato. Vabbè, c'è l'occasione di poterlo fare, dai. Si conferma, va bene. Se hai pazienza, perché devo passare al Melo, prendere la cognata e poi andare lì a dalla Bosa, dai. Neanche Bosa Marina, però un po' prima. Io già la conosco quella zona, sono stato. Ho lavorato anche in quella zona. Quando era Bosa seguivo tutta la zona del Temo, tutte quelle zone lì, quindi già la conosco bene, è una bellissima zona. Bellissima zona, molto fresca, molto bella. Io da ragazzo, amico Marisa, andavamo lì alla Speranza, però il camper mi viene un po' difficoltoso lì. La Speranza col camper è un po' difficoltoso, sì, però se rimani sul costone prima già è bello. Non è che ci siano, insomma, non ci sono opportunità lì, dai, di passaggio, di quanto è un po' trafficata e messa male la strada lì, eh? Io lo so, è trafficata la strada e anche brutta, soprattutto quella che Dalghero porta la Speranza e a Boscia, è brutta quella strada, tutto buio, poi stretta. E allora, io adesso sono qua, entrata a Bricoman. Tra un po' si trasferisce anche da lì, la Techman si trasferisce a Fredda-Niedda, praticamente quel capannone nuovo che stanno facendo, che stanno ristrutturando dell'Aico. Ah sì? No, non sapevo. E vabbè. Vabbè, lì c'è un affitto, mentre quello invece l'hanno comprato, lo stanno ristrutturando, è un fallimento dell'Aico, e quindi si trasferiscono lì. E dove rimane? Dove dovrebbero rimanere altri? Guarda, è quello... come te lo posso spiegare? Scendo dove c'è Confalonieri, diciamo, dai. Ah, sì, ho capito. Hai visto che lì ci stanno lavorando, c'è un capannone enorme. Ho capito, ho capito. Non so che strada sia, dai, quella che costeggia Città Mercato, praticamente. Andare, andare. Che è il tuo? Il caldo soffrendo ne sta? Guarda, sì, è coricato qua sotto la scrivania. Caldo io non ne ho, però devo per forza accendere il ventilatore e puntarglielo sopra perché sta ad esempio raccanenti. Purtroppo i morossi sono così, anche il tuo. Se ce l'ho qua a fianco, con la lingua fuori, poverino, lui viaggia a fianco a me. Sì, Filippo, come ha preso il sportello della macchina è già dentro, me l'ho portato da Monica a lavare lunedì, infatti pronto, lunedì, altro dicendo, mercoledì l'ho portato. Di mattina alle 9:30, proprio ho detto dammi l'apertura perché a mezzogiorno non te ne porto, infatti alle 9 ero già lì e me l'ha dato verso le 10:30, 11:15, l'ho portato subito a casa, si è trascinato al fresco, si è bevuto due ciotole d'acqua. L'ho già sentita questa Monica, sa che manca è un'amica del mio principale, vedete, ha portato anche lui a un rotolaio, ma lo stesso, dai, però è cucciolo. Volevo sapere dove era, ma mi sono dimenticato di chiederglielo. Ma, sì, dove abitavo io, in via Pascoli, attaccato al Varadero, ti ricordi dove abitavo io? Sotto, dove c'era Poldo, con la paninoteca, lì, sempre lì, si chiama Pedolindo. Ah, sì, cavolo, già la conosco. Cioè, conosco la zona, conosco il posto, so dov'è. Andare, molto prende a lavaggio? Guarda, per Filippo, che più o meno come il tuo, a me mi prende 25 euro, le taglia le unghie, tutto completo. No, perché ho sentito che c'è lavaggio fai da te lì, vicino dove c'è Pinocchio. Ma lavaggio per i cani? E poi vabbè lì a cosa c'era anche, lì vicino a Città Mercato. Ti hanno rotto le balle, ti riportare le cose tu, capito, tutti i prodotti, le cose, shampoo, quello per bambini, capito, quelli, insomma, io glielo lascio lì un'oretta, 23 euro, non è che lo lavo tutti i mesi, no? Io adesso perché sono qua e lui si sta sporcando molto di più, quando era carbonato lo lavavo ogni 4-5 mesi, chiaro che lo pulivamo noi con le salviette, tutti i santi giorni, però qua sta dentro e quindi va pulito, capito? Però 25 euro non sono niente. No, se gli fa il trattamento completo va più che bene, diciamo, dai. Sono a 4 corsie qua. 9-10 sì, per il momento, 9-10, sì, la lava completo, pulizia delle orecchie, le unghie, le fa tutto. Prima era 20 euro, poi con questo cazzo di Covid l'ha portato a 25, capito? L'ha portato a 25, però dai, lo pulisce bene, bello, esce tutto bello profumato. Vabbè, ma poi tu ce l'hai in casa, io vabbè, avendolo in campagna, già è più dentro casa che fuori, però anche lui, sai, si corica magari fuori, dove c'è fresco, la terra, è così, si sporca un po' di più. E comunque il fumo sta ancora andando, lo vedo qua dalle 4 corsie, che è ancora alto. E cosa rende se ha preso fuoco la pratica e tu l'andira? pensi che la spengano così facilmente? Come facciano? E ci vogliono gli schiumogeni, ci saranno squadre intere di vigili del fuoco. Non lo so. No, ma anche il mio sta fuori, lui sta solo dentro me a questa ora, ma la mattina sta sempre fuori, buttato sotto la veranda, nell'erba, poi c'è un pezzettino di prato suo sintetico, sta sempre buttato lì, c'è polvere, capito? Quindi si sporca, non è che non si sporca. Cosa? Non mi senti più? No, claro, non ti ascolto, se hai possibilità di poter alzare o usare anche l'altro, quello della 27, perché io non riesco a ascoltarti. Sono qua, zona quasi bancale, dai, a fianco costeggia la strada dei bancali, sono a quattro corsie, però non ti ascolto più qua, tra. Te l'ho detto, ormai, ho passato la mano, vediamo un po' se con questa mi ascolti un po' di più. Io provo a pompare, provo ad attaccare, Claudio, se mi ascolti, non so neanche se mi ascolti tu qua, Se mi senti, provo ad attaccare. Io non posso attaccare niente, sto usando il gas, c'è 80 watt, Tino. No, ho staccato tutto, stavo solo provando l'amplificatore grande. Questo c'è l'amplificatore suo, 80 watt. Io a te ti sento magnificamente bene. È negativo, Claudio. Ho sentito il tuo beep, però non riesco a capire cosa hai detto, dai. Ti chiamo magari più avanti se è più zona aperta, che qua è un po' chiusa tra alberi e quant'altro, sono in mezzo a quattro corsie, in mezzo alle scavo delle montagne, diciamo, quindi magari sarà anche un po' più tappato per l'ascolto. Non so se mi ascolti, Claudio, ti chiamo dopo. Ti ascolta magnificamente bene, Claudio, sei tu che non senti a lui. Hai sentito la chiavetta Natalino? Io ti ascolto magnificamente bene, 5-7, 5-8, tu la ricezione ce l'hai un po' di quelle cuocomane. Ciao Natalino. Ciao Cla. Ciao Natta, sì, ti ho ascoltato leggero, dai. Purtroppo questo è l'apparato, più di quel tanto non posso dare. Ehi, c'è un bel incendio lì alla Gesena, non si chiama Gesena, c'è lo stabilimento della plastica, mi ha mandato un video marino allucinante. E io ce le ho tutte, me le hanno tutte mandate a me quelle foto e quei filmati. C'è un macello nero. Allora mi butto fuoco, ma lì la plastica è difficile da spegnere, non lo giaccio. Vediamo un po', tu non mi accoppi? Sì, ora ti ascolto, adesso va. Molto sicuramente ti ascolterò ancora meglio perché sto prendendo un po' la salita. A Natale lo ascolto basso, pio, salutalo. Non so se mi ascolta, Io ti ascolto benissimo. Ti ascolta Natalino, alla grande, non ci stanno problemi. Ehi, va bene, dai. No, io non lo ascolto più. Quanto sta arrivando qua, Claudio? Dalle tue parti ora, dai, sono nella zona, è un po' in salita, dai, qua, diciamo incrocio per quasi l'Argentiera. S8, S9 con quel sebittino, stai arrivando benissimo alla grande. Ehi, andare allora, dai. Ora incrocio Lago di Gage, di Barak, scatta la carta, magari. Lago di Barak. Vabbè, non abbiamo niente da invidiare tra Lago di Gage e Lago di Barak, se sono uguali. vabbè, sempre un lago, dai. Pensavo di essere lì, e invece no, sono tornato sulla terra. E vabbè, sempre un lago, come il lago di Como, avanti si go, siamo tutti laghi, insomma. Va bene, Natalia, l'hai sentito a Tino? E io lo sento sempre bene, purtroppo c'ho questo monogatto e non imbatto io. Ascolta, non decimi il regatto perché non ti compri il pandoro, arrivi. Ci vorrebbe sì il pandoro. Vabbè, dai, poi pazienza ancora. Ah, vabbè. Muscolo, cazzo, c'è un fumo, si vede anche la casa. Chissà, il portatore se lo fumo lui veglia. Questo fumo nero, mamma mia, mi hanno mandato dei filmati terrificanti, sono qua. È tossico, è plastica che sta bruciando, poi chissà la gomma che fa puro. È un macello, è difficile da spegnere, sarà quell'incendio. Bisogna vedere si dà in busto, non si è partito da solo, ma la plastica noi parte così facilmente. Infatti il sindaco ha detto di papparsi in casa e di non uscire assolutamente. C'è anche un cane alle reazioni. Cosa già? Buonasera a tutti. E c'è un canale, già da mezz'ora, 40 minuti, sta facendo una cilacca, lo vedo da casa. Io cosa hai detto nella pratica? Altro il canale, chi vivo? Attento, Tino. Un profeta, ma è troppo. Ah, per carità, è un cazzo che non si ne buona vita. Oh, yeah. Mamma mia. Oh, Caldo, un bel caldo. Niente, un'altra domanda? Non so, un'altra domanda, c'è il caldo. Oh, yeah. Ciao Natalino, buonasera. Ciao profe, caldo c'hai? Ehi, guarda, questa casa è H-Bassori H24, vabbè, H24 non è possibile, però H12 sì. È forse di più, dai. Il sindaco ha messo l'ordinanza che a tapparsi tutti in casa, perché è un bel tussica quella nube che sta uscendo da lì. Lo so, se è plastica, poi c'è anche gomma, mezzo la plastica, un casino. Gloria, esci, mi faccio vedere com'è la situazione, eh. No, io ve lo lascio il fumo perché c'è la collinetta, però già si vede il fumo dal portatore, c'è male giù. Ah, Claudio! Ehi! A proposito, due domeniche fa ho conosciuto a tuo fratello, a così, gli ho detto, ma scusa un attimo, ma per caso, ma ti fai? Ma è così, a che siete? Ecco, sono un carissimo amico di tuo fratello. Vabbè, con lo zombie, non l'hai trovato. Antonello, dai, ero lì al chiosco, no, come mi riconosci l'amico, esatto, se non mi è precisa. Va bene, ascolta, io sono qua, dai. Ti sento basso adesso, Sono qua all'incrocio di Olmedo. Più male di me, vabbè, più male, Ah, lì alle saline sicuramente. Ed è sempre in chimica, hai girato. No, era lì a... cosa, a zona, dai. Mentre 10 minuti fa ero al telefono pure lui. Vabbè, dai. E' pigliato lo solito quando lo vedo. Ragazzi, sono entrato a Olmedo. Arrivi sempre, vediamo se ti ascolta Natalino, poi vai per Gianni Natalino. E qui arriva sempre, non c'è problema. Sono io che non arrivo da lui, là. Avanti Gianni. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo dopo, chiama dopo, vai Gianni. Sento anch'io Tino Pio qua, Santiago 2-3, adesso, non so se mi copia, comunque salutoni a Tino e niente, dai, buona passeggiata. Ma se rivolto qua, a me fa difficoltà ascoltarmi, non ho tanta parte, ecco già voi che ti dica. Oia, mi sono affacciato, c'è ancora il camera che sta facendo... che sta viaggiando, dai, carica l'acqua lì a Platamona e poi va a spegnere, è ancora in azione, dai. Se speriamo che hanno gareggiato, non aspirare anche lui mentre fantozzi, se la fa vedere un fuoco. Oh, yeah, cro. Bene, ragazzi, dai, ho acceso la radio, vi ho sentito, sono entrato così al volo. Dai, salutoni e buon proseguimento di serata, ci aggiorniamo alle prossime, ok? State a corti. Altrettanto già, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime, dai. Ciao, profe, facci sentire, e io poco sto entrando perché c'è troppo caldo, ma giurami, adesso sto ascoltando un pochino in 40, e te ci accendo la radio e sentito a Tino chiamare. Va bene, dai, sto in ascolto, poi riprendiamo quando chiama Tino o Natalino. Caparà, rimango in ascolto io. Intanto sto facendo cosa qua. Oh signore. Giappa di Rosmetro, va bene. Ha preso Claudio. Maria, vediamo se mi ascolti tu. Mi ascolti Tino? Noi già ti ascoltiamo, sei tu che non ascolti. Pronto, pronto. Ma che antenna vai Tino? Attento muscolo, noi ti ascoltiamo forte e chiaro. Gappa gappa. Attento muscolo. Attento Tino. Tino. Ehi, io ti ascolto, sei tu che non mi ascolti. Tino, io ti ascolto, sei tu che non ascolti. Togli l'attenuatore. Cazzo, sembra che c'è RFG, è impossibile che non mi senti. Boh. Mi sente Carlo, sino a Fertilia. Attento Tino. Ho detto che già ti sento, io sei tu che non mi senti. Muscolo, io ti sento, 5-8. Un mistero di radio di Tino Muscolo. Attento Tino, mi accoppi, cambio. Già ti ascolto, io ti ho detto, sei tu che non ascolti, c'è l'antenna di gomma. Tino, è mezz'ora che ti chiamo, se non senti, cosa ne gioco già la antenna? Impossibile. Arrivo benissimo ad Alghero io, Carlo ci sente tutti. Ma è un problema dell'antenna tua però, perché con Carlo noi parliamo sino all'aeroporto di Fertilia, lo accompagniamo. Quanto pompate, non servi pompare, giù con 50 watt servi pompare, ancora. Ti stanno coprendo gli spagnoli, Tino, ti coprono gli spagnoli, gappa. Non ti sento più, non ti accoppio.